badarti loro. Guarda e passa. E passa. Non badarti loro. Basta, cazzo. Nick on the beat. Passa, jolla o ti molla. Un cartone. Il mondo funziona. Yeah. Yeah. Yeah. Sulle cravatte di chi ha scommesso che questo mondo crollasse, collassasse nella sua asse, peggio del muro di Berlino contrasse, un errore nel codice genetico di un essere umano parallasse, di una mente in fase di insana. Io voglio mangiare in questo mondo infame. Datemi da divorare. Mondo crudele, senza più natura alcuna. Io sono come il diavolo che ritorna dentro ha una traccia, questione di bravura. Lo senti questo swag? Non dire che poi l'hai preso da me. Sono troppo forte dentro me, siamo in 23. Pronti ad uscire, sfornare nuovi pezzi? Tu vorresti raggiungerci, ma noi siamo dei colossi. Colossi. Cani. Bulldog Terrier.